Capitolo 74. I gemelli rivali. Quando dopo cinque generazioni la discendenza maschile della casa di Policaone si estinse, i Messeni elessero loro re Periere, figlio di Eolo, ed egli sposò la figlia di Perseo, Gorgofone. Gorgofone visse più a lungo di Periere e fu la prima vedova che si rimaritò. Il suo secondo marito fu Ebalo di Sparta. Fino a quell'epoca vigeva l'usanza che le donne si uccidessero alla morte dei loro mariti, come fece la figlia di Meleagro, Polidora, il cui marito Protesilao fu il primo a balzare a terra quando la flotta greca giunse alla spiaggia di Troia, e come fecero Marpessa, Cleopatra ed Evadne, figlia di Filaco, che si gettò sulla pira del marito perito dinanzi a Tebe. Afareo e Leucipo furono i figli che Gorgofone ebbe da Periere, mentre Tindareo e Icario furono i figli che essa ebbe da Ebalo. Tindareo succedette al padre sul trono di Sparta, mentre Icario gli rimase al fianco come co-re, ma Ippocoonte e i suoi 12 figli li scacciarono ambedue, benché taluni dicano che Icario, divenuto più tardi suocero di Odisseo, fosse d'accordo con Ippocoonte. Rifugiatosi presso il re Testio in Etolia, Tindareo ne sposò la figlia Leda, che gli generò Castore e Clitennestra, e al tempo stesso generò a Zeus Elena e Polideuce. Più tardi, avendo adottato Polideuce, Tindareo riconquistò il trono di Sparta e fu uno di coloro che Asclepio risuscitò da morte. A Sparta si mostra ancora la sua tomba. Frattanto, Afareo era succeduto al fratellastro Periere sul trono di Messene, e Leucippo, dal quale, secondo i Messeni, prese il nome la città di Leutra, gli rimase accanto come co-re e con poteri assai minori. Afareo sposò la sorellastra Arene, che gli diede due figli, Ida e Linceo, benché Ida fosse in verità figlio di Posidone. Ora le figlie di Leucippo, le Leucippidi, e cioè Febe, una sacerdotessa di Atena, e Ilaira, una sacerdotessa di Artemide, furono promesse in spose ai loro cugini Ida e Linceo, ma Castore e Polideuce, che erano comunemente noti come i Dioscuri, le rapirono ed ebbero da esse dei figli, che diede origine a un'aspra rivalità tra le due coppie di gemelli. I Dioscuri, che partecipavano a ogni impresa assieme senza mai separarsi, divennero l'orgoglio di Sparta. Castore era famoso come guerriero e domatore di cavalli, Polideuce come il miglior pugile dei suoi tempi. Ambedue vinsero premi ai giochi olimpici. I loro cugini e rivali non erano meno devoti l'uno all'altro. Ida era più forte di Linceo, ma costui aveva una vista così acuta da poter vedere nell'oscurità e divinare il luogo dove fosse sepolto un tesoro. Ora, Eveno, figlio di Ares, aveva sposato Alcippe, che gli diede una figlia, Marpessa. Poiché Eveno desiderava che Marpessa rimanesse vergine, invitava tutti i suoi pretendenti a turno a misurarsi con lui in una corsa di cocchi. Il vincitore avrebbe ottenuto la mano della fanciulla, mentre il vinto ci avrebbe rimesso la testa. Ben presto tante teste furono inchiodate alle pareti della casa di Eveno, che Apollo, innamoratosi a sua volta di Marpessa, espresse il suo profondo disgusto per una così barbara usanza e disse che vi avrebbe posto fine sfidando Eveno alla corsa. Ma anche Ida aveva riposto le sue speranze in Marpessa e chiese in prestito un cocchio alato al padre suo Posidone. Prima che Apollo potesse intervenire, Ida si recò dunque in Etolia e si portò via Marpessa, strappandola a un gruppo di danzatrici. Eveno si lanciò all'inseguimento, ma non poté raggiungere Ida e si sentì così umiliato che, dopo aver ucciso i propri cavalli, si annegò nel fiume Licorma, chiamato Eveno da quel giorno. Quando Ida giunse a Messene, Apollo cercò di portargli via Marpessa. Combatterono in duello, ma Zeus li divise e ordinò che Marpessa scegliesse chi dei due preferiva. E poiché temeva che Apollo la abbandonasse non appena avesse cominciato a invecchiare, come già aveva fatto con parecchi amanti, Marpessa scelse Ida come marito. Ida e Linceo fecero parte del gruppo dei cacciatori caledoni e salparono con la nave Argo per la Colchide. Un giorno, dopo la morte di Afareo, essi si riappacificarono temporaneamente con i Dioscuri e tutti e quattro unirono le loro forze per razziare del bestiame in Arcadia. L'impresa fu coronata da successo e Aida toccò il compito di dividere il bottino. Egli distribuì a ciascuno un quarto di vacca e stabilì che il primo che avesse divorato la sua parte avrebbe scelto le bestie migliori e così via in ordine decrescente di rapidità. Prima ancora che gli altri affondassero i denti nella carne, Ida aveva già spolpato il proprio quarto. Poi aiutò Linceo a finire il suo e insieme spinsero il bestiame verso Messene. I Dioscuri rimasero sul posto finché Polideuce, il più lento di tutti, non ebbe finito di mangiare. Allora marciarono su Messene e protestarono pubblicamente dicendo che Linceo aveva barato accettando l'aiuto di Ida e Ida a sua volta aveva barato non attendendo che tutti avessero finito la gara. Ida e Linceo non si trovavano in città poiché si erano recati sul monte Taigeto per sacrificare a Posidone. I Dioscuri si impadronirono allora del bestiame conteso e di altri capi per sovrammercato e si appiattarono nel cavo di una quercia per attendere il ritorno dei loro rivali. Ma Linceo li aveva scorti dalla vetta del Taigeto. Ida, precipitatosi giù dalla montagna, scagliò la sua lancia contro l'albero e trafisse Castore. Quando Polideuce si precipitò fuori per vendicare il fratello, Ida strappò dal sepolcro di Afareo la pietra tombale scolpita e gliela scagliò addosso. Benché ferito, Polideuce riuscì a uccidere Linceo con la sua lancia. A questo punto Zeus intervenne in favore di suo figlio e colpì Ida con una folgore. Ma i Messeni dicono che Castore uccise Linceo e che Ida, stravolto dal dolore, interruppe la lotta per seppellirlo. Castore allora si avvicinò con fare insolente e distrusse il monumento eretto da Ida, dicendo che Linceo non ne era degno. «Tuo fratello si è battuto come una donna!» gridò provocante. Ida si volse e affondò la spada nel ventre di Castore, ma Polideuce vendicò immediatamente il suo gemello. Altri dicono che Linceo fu mortalmente ferito da Castore in una battaglia combattuta ad Afidna, e altri ancora che Castore fu ucciso quando Ida e Linceo attaccarono Sparta. Altri, infine, che ambedue i Dioscuri sopravvissero e che Castore fu ucciso in seguito da Meleagro e Polinice. Tutti concordano tuttavia nel dire che Polideuce fu l'ultimo sopravvissuto delle due coppie di gemelli. Dopo aver innalzato un trofeo presso la pista di Sparta per celebrare la sua vittoria sul Linceo, egli pregò Zeus con queste parole: «Padre, non permettere che io sopravviva a mio fratello. Tuttavia, poiché era destino che soltanto uno dei figli di Leda morisse, poiché Tindareo, padre di Castore, era mortale, Polideuce, come figlio di Zeus, ascese al cielo. Egli rifiutò l'immortalità a meno che Castore non potesse condividerla e Zeus concesse che trascorressero a turno un giorno nel cielo e un giorno sottoterra a Terapne. E come ricompensa per il loro amore fraterno, ne pose l'immagine tra le stelle come costellazione dei gemelli. Dopo che i Dioscuri furono divinizzati, Tindareo chiamò Menelao a Sparta e gli affidò il regno. E poiché non vi erano più eredi della casa di Afareo, Nestore gli succedette sul trono di Messenia, benché una parte di quella regione fosse governata dai figli di Asclepio. Gli Spartani mostrano ancora la casa dove vissero i Dioscuri. Codesta casa divenne poi di proprietà di un certo Formione e i Dioscuri gli fecero visita una notte, fingendo di essere stranieri giunti da Cirene. Gli chiesero alloggio e lo pregarono di lasciarli dormire nella loro vecchia stanza. Formione rispose che era pronto a mettere a loro disposizione qualsiasi camera, fuorché quella occupata ora da sua figlia. Il mattino seguente la fanciulla e tutti gli oggetti di sua proprietà erano spariti e la camera era vuota, salvo per le immagini dei Dioscuri e per un ramo di belsuino posato su un tavolo. Posidone fece di Castore e Polideuce i salvatori delle navi in pericolo e concesse loro il potere di far spirare venti favorevoli. In risposta al sacrificio di agnelli bianchi offerto sulla prua di qualsiasi nave, essi giungono in fretta volando nel cielo, seguiti da uno stormo di rondini. I Dioscuri combatterono con la flotta spartana a Egospotami e i vincitori appesero due stelle d'oro votive nel tempio di Delfi, ma codeste stelle caddero e sparirono poco dopo la fatale battaglia di Leutra. Durante la seconda guerra messenica, due messeni suscitarono l'ira dei Dioscuri, travestendosi come i famosi gemelli. Ciò accadde mentre l'esercito spartano stava celebrando la festa in onore dei due semidei. due lancieri entrarono nel campo al galoppo indossando tuniche bianche, manti purpurei e berretti a forma di guscio d'uovo. Gli spartani caddero in ginocchio per adorarli e i falsi Dioscuri, due giovani messeni chiamati Gonippo e Panormo, uccisero molti di loro. Dopo la battaglia della tomba del cinghiale, dunque, i Dioscuri sedettero su un pero selvatico e fecero sparire lo scudo del vittorioso comandante messenico Aristomene, impedendogli così di incalzare gli Spartani in ritirata e salvando parecchie vite. Inoltre, quando Aristomene tentò di assalire Sparta nottetempo, i fantasmi dei Dioscuri e della loro sorella Elena lo respinsero. Più tardi Castore e Polideuce concessero il perdono ai messeni, che fecero loro dei sacrifici quando Epaminonda fondò la nuova città di Messene. I Dioscuri presiedono ai giochi spartani e, poiché hanno inventato la danza di guerra e la musica di guerra, sono altresì i patroni di tutti gli aedi che cantano le antiche battaglie. A Ilaira e nel santuario di Febe a Sparta, le due sacerdotesse si chiamano ancora Leucippidi e l'uovo da cui nacquero i gemelli di Leda è sospeso a soffitto. Gli Spartani rappresentano i Dioscuri con due travi di legno parallele unite da due altre travi trasversali. I loro cuore portano sempre questo simulacro in battaglia e quando, per la prima volta, l'esercito spartano fu guidato da un solo re, fu decretato che una delle due travi rimanesse a Sparta. Stando a quanto dicono coloro che hanno visto i Dioscuri, l'unica differenza tra loro è che il volto di Polideuce reca cicatrici, conseguenze del pugilato. Vestono allo stesso modo. Ognuno di loro ha il berretto a forma di guscio d'uovo sormontato da una stella e il cavallo bianco. Taluni dicono che Posidone donò loro codesti cavalli, altri che lo stallone tessero di Polideuce fu un dono di Ermete. Allo scopo di assicurare al divino Paredro la precedenza sul successore, egli veniva descritto solitamente come figlio di un dio, mentre il suo gemello era figlio di un mortale. Così Eracle è figlio di Alcmena e di Zeus, e il suo gemello Ificlo è figlio del marito di Alcmena, Anfitrione. Una storia analoga si narrava a proposito dei Dioscuri di Laconia e dei loro rivali Ida e Linceo di Messenia. La perfetta armonia che regnava tra i gemelli indica un nuovo stadio nello sviluppo dell'organizzazione monarchica. Il successore ormai è divenuto una specie di gran visir, pur essendo in teoria meno potente del re stesso. Castore, dunque, non Polideuce, è un'autorità in campo militare. Egli istruisce infatti Eracle nell'arte della guerra, identificandosi così con Ificlo, e Linceo, anziché Ida, è dotato di vista acutissima. Ma finché non si giunse al sistema del doppio regno, il successore non fu considerato immortale né degno di onori postumi quanto suo fratello. Gli Spartani venivano spesso alle mani con i Messeni e nell'epoca classica ebbero una potenza militare tale e una così grande influenza sull'oracolo delfico da poter imporre i Dioscuri al resto della Grecia come se essi godessero dei favori di Zeus più di qualsiasi altra coppia di gemelli. E il regno di Sparta durò infatti più a lungo di tutti i suoi rivali. Se fosse stato altrimenti, la costellazione dei gemelli avrebbe commemorato Eracle e Ificlo, o Ida e Linceo, o Acrisio e Preto, anziché Castore e Polideuce, che non erano nemmeno gli unici eroi cui fosse concesso il privilegio di cavalcare cavalli bianchi. Ogni eroe degno di sacrifici eroici era un cavaliere. Le nozze con le Leucippidi avallarono la sovranità dei co-re spartani. Esse erano descritte come sacerdotesse di Atena e di Artemide e ricevevano nomi lunari poiché erano di fatto sacerdotesse della dea lunare. Così nelle pitture vascolari sono spesso i Dioscuri che badano al cocchio di Selene. Come spirito dell'anno crescente, il re sacro doveva naturalmente accoppiarsi con Artemide, la dea lunare della primavera e dell'estate, e il suo successore, come spirito dell'anno decrescente, doveva accoppiarsi con Atena, che era divenuta dea lunare dell'autunno e dell'inverno. Il mitografo suppone qui che gli Spartani sconfiggessero i Messeni e che i loro capi sposassero con la forza le ereditiere di Arene, la principale città messenica, dove si onorava la grande madre dalla testa di cavalla, stabilendo così i loro diritti sulla regione circostante. Lo stesso si può dire del mito di Marpessa. Evidentemente i Messeni fecero una scorreria in territorio etolo, nella valle dell'Evenno, dove si onorava la dea delle semine, e si portarono via l'ereditiera Marpessa, che afferra o che inghiotte. A essi si opposero gli Spartani, fedeli di Apollo, che contestarono la loro vittoria. La questione fu allora deferita all'autorità centrale di Micene, che appoggiò i Messeni. Ma la gara di cocchi di Eveno e di Ida ricorda quella di Pelope e di Enomao e di Eracle e Cicno. In ognuno di questi casi si parla dei teschi dei rivali del re. La raffigurazione da cui fu tratta questa leggenda doveva mostrare il vecchio re che corre verso il luogo dove il suo cocchio dovrà sfasciarsi dopo aver offerto in sacrificio alla dea 7 sostituti. I suoi cavalli sono sacrificati in una cerimonia preliminare all'incoronazione del nuovo re. La leggenda dell'annegamento di Eveno nacque probabilmente dall'errata interpretazione di una raffigurazione di Ida intento a purificarsi prima delle nozze per poi salire trionfante sul cocchio della regina. Tuttavia, codesti riti nuziali pelasgici si fusero nel mito con l'usanza ellenica del matrimonio preceduto dal ratto. La fatale razzia di bestiame ricorda forse un episodio storico, cioè una lite sorta tra Messeni e Spartani a proposito della spartizione del bottino dopo una comune spedizione contro l'Arcadia. L'episodio della visita di Castore e Polideuce alla casa di Fermione è narrato in mala fede. L'autore descrive un'altra beffa giocata agli stupidi Spartani da qualcuno che si travestì a somiglianza dei loro eroi nazionali. Cirene, una città dove era presente il culto dei Dioscuri, forniva il Belzoino, una specie di assafetida che per il suo odore penetrante era molto apprezzato come condimento. I due mercanti di Cirene erano probabilmente ciò che dicevano di essere e, quando se ne andarono portandosi via la figlia di Fermione, lasciarono nella stanza le loro merci a guisa di pagamento. Fermione decise di gridare al miracolo per non fare brutta figura. I peri selvatici erano sacri alla luna per via dei loro fiori candidi e il più antico simulacro della dea della morte era, nel suo santuario di Micene, era fatto di legno di pero. Plutarco ed Eliano dicono che ad Argo e a Tirinto le pere erano un frutto sacro, ecco perché il Peloponneso fu chiamato Apia dell'albero di pero. Atena, anch'essa una dea della morte, aveva il soprannome di Onca Pero nel suo santuario del Pero in Beozia. I Dioscuri scelsero appunto quest'albero per appollaiarvisi allo scopo di dimostrare che erano veri eroi. Inoltre, i frutti del Pero si formano verso la fine di maggio, quando il sole entra nella costellazione dei Gemelli e quando inizia l'epoca favorevole alla navigazione nel Mediterraneo orientale. Le rondini che seguono i Dioscuri quando essi appaiono, invocati dalle preghiere dei marinai, appartengono alla dea del mare Afrodite. Suto, rondine, il padre di Eolo, era un antenato dei Dioscuri che onoravano la dea. Nell'inno omerico ai Dioscuri non è detto chiaramente se Castore e Polideuce fossero seguiti dalle rondini o se solcassero rapidissimi l'etere con ali di rondine per accorrere in aiuto dei marinai. Ma sugli specchi etruschi essi appaiono alati. I docana, che erano il loro simbolo a Sparta, rappresentavano i due pilastri di sostegno di un tempio. Un altro simbolo consisteva in due anfore, ciascuna avvolta nelle spire di un serpente. I serpenti erano l'incarnazione dei Dioscuri, che venivano a mangiare il cibo posto nelle anfore. Gorgofone sfidò l'usanza indoeuropea del Sutee, sposandosi di nuovo.